Informazione a cura di Filippo Glorioso. Un cordiale buongiorno, ben sintonizzati sulle frequenze di CRM Happy Radio, in studio il sottoscritto Filippo Glorioso, che vi dà il benvenuto e il buon ascolto naturalmente per la puntata odierna. Vi ricordo la differita sempre domenica alle 9.30 in poi, potete seguirci anche su Facebook se volete, oppure scrivendo su Google www.crmradio.it, ci potete seguire anche in diretta visiva, quindi abbiamo una televisione interna come un'altra radio nostra gemellata. In studio due personaggi importanti, ma prima di parlare, di presentarvi questi personaggi, devo dare lettura di una missiva che è appena giunta sul mio tavolo. Parliamo di ecologia e ambiente, siamo a Cefalù e casca a fagiolo. Allora, aumentano i rifiuti che ogni giorno produciamo, ma diminuiscono i luoghi che ci consentono di smaltirli correttamente e senza rischio. Da diversi anni oramai, grazie all'attività e consapevole collaborazione di voi tutti nei comuni facenti parte del lato Palermo 5, la società Ecologia e Ambiente S.P.A. attua un sistema semi-domiciliare di gestione dei rifiuti che ha portato a raggiungere ottimi risultati in termini di aumento delle percentuali di raccolta differenziata e diminuzione dei rifiuti inviati in discarica. Proprio per migliorare ancora questi obiettivi è giunto il momento, continua la nota, di spiegarci verso nuovi traguardi, per cui abbiamo deciso di invitarti a partecipare alla realizzazione di una nuova iniziativa. A partire dal 10 aprile 2012 la raccolta differenziata dei rifiuti a Cefalù diverrà operativa mediante l'utilizzo di un apposito kit di contenitori domestici che sarà distribuito gratuitamente a tutte le famiglie e i nuclei abitativi ubicati nel centro storico della nostra città, che dovrà di conseguenza essere necessariamente utilizzato per il conferimento dei rifiuti prodotti mediante il sistema della raccolta domiciliare, che sarà effettuata esclusivamente nei giorni e con le modalità secondo le fasce orarie indicate. Tra poco ve li dirò, da persone della società Ecologia e Ambiente S.P.A. Nei giorni prossimi il personale di Ecologia e Ambiente vi contatterà per la consegna del materiale e per spiegarvi queste nuove modalità di raccolta. Per favorire ulteriormente la partecipazione consapevole della cittadinanza e il raggiungimento dei risultati che tutti noi auspichiamo, abbiamo organizzato un'assemblea cittadina per giorno 23/3/2012 alle ore 18.30 nella sala consiliare del Palazzo Municipale, nel corso della quale saranno illustrate le modalità di avvio del nuovo spazio porta a porta per il ritiro dei rifiuti differenziati. Naturalmente vi aspettiamo numerosi. Adesso do la lettura dei giorni della differenziazione per tipologia, quindi andiamo a lunedì dalle 7 alle 9 frazione umida organica, martedì dalle 7 alle 9 rifiuti indifferenziati, martedì sempre dalle 7 alle 9 vetro e metalli, mercoledì dalle 7 alle ore 9 carta e cartone, mercoledì dalle 7 alle 9 la plastica, giovedì dalle 7 alle 9 frazione umida organica, venerdì dalle 7 alle 9 rifiuti indifferenziati, venerdì sempre dalle 7 alle 9 quindi stesso orario vetro e metalli, e dulcis in fundo sabato dalle 7 alle 9 frazione umida organica. Per conoscere tutti i servizi a vostra disposizione dovete chiamare il numero verde 800 7109 44. Mi raccomando, avete preso nota, casomai daremo ancora lettura durante il corso della trasmissione, di modo tale che possiate essere aggiornati e quindi prendere degli appunti e avere le idee chiare sul da farsi. Dicevo prima di dare lettura di questo comunicato che ci è stato inviato da Ecologia e Ambiente del lato Palermo 5, vi parlavo di due ospiti un po' particolari. Poi il secondo lo capite perché è particolare, perché è molto attinente al lato. Abbiamo qui in trasmissione oggi giovedì 22 di marzo il comandante attuale dell'Arma dei Carabinieri, il capitano vecchio Enrico, eccolo qui, buongiorno. Intanto la ringrazio per aver accettato l'invito e ha tolto del tempo a tutti quanti noi, perché lei insomma è allocato per controllare tutto quello che funzioni bene e male, quindi la ringrazio tanto. Poi abbiamo invece il candidato a sindaco, dico bene, candidato a sindaco di Castelbuono, il dottor Giuseppe Norata, che ringrazio e saluto per la sua partecipazione alla mia trasmissione. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, dicevo prima, era molto attinente il secondo personaggio con lato 5. Vi ricordo che il dottor Norata è l'attuale dirigente, liquidatore del lato Palermo 5. Poi parleremo nello specifico di questo e poi entreremo nella tematica politica. Intanto le domande che mi sorgono spontanee, signor capitano, da fare a un esponente che ha una grande responsabilità sulle spalle, quello di gestire un territorio da parte della sua compagnia che lei comanda. E la prima domanda che le pongo è questa: da dove le è venuto fuori l'idea di tra tante forze armate, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, di entrare proprio nell'arma dei Carabinieri? Cos'è che le è scattato dentro verso questa benemerita? Beh, guardi, premesso che ogni forza armata e forza di polizia svolge nel complesso egregiamente il proprio compito, esercitando nel contempo una certa attrattiva anche nei confronti delle generazioni, quello che mi ha sempre colpito è stato il ruolo sociale che riveste il carabiniere. Così come è stata strutturata nel corso del tempo l'arma sul territorio, i suoi appartenenti, soprattutto nei centri più piccoli, esercitano ancora una funzione sociale che ritengo tuttora sia ancora molto importante, ponendosi spesso quale punto di riferimento per la comunità, per problematiche di svariata natura. Senta, comandante, intanto una domanda mi corre d'obbligo: la sua compagnia quanti comuni abbraccia nell'Interland Madonite? Il territorio di competenza abbraccia tutte le basse madonie, i comuni in totale sono 10, sono appunto Cefalù, Lascari, Campofelice di Roccella, Gratteri, Collesano, Scillato, Isnello, Castelbuono, Pollina e San Mauro Castelverde. Dunque, se nelle sue possibilità, io le chiedo quali sono i crimini che negli ultimi tempi si sono maggiormente sono venuti fuori e quali sono invece gli aspetti peculiari dell'arma per la repressione sul territorio. Beh, diciamo che in linea di massima negli ultimi 10 anni, come lotta al crimine organizzato, sono state tratte in arresto circa 30 persone per associazione mafiosa o reati affini, quali estorsione, eccetera, nonché altre 100 persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Non di meno, altre operazioni sono state condotte contro associazioni criminali dedite alla commissione di reati predatori, quali furti in abitazioni, che hanno portato all'arresto di altri circa 30 soggetti. Senta, chi vive nel sociale, chi fa il suo mestiere, naturalmente guarda con un occhio più attento i giovani, che sono il certo futuro, le future generazioni che andranno poi a ricoprire incarichi che oggi magari occupiamo noi. C'è questa piaga, chiamiamola così, ne fanno molto uso i mass media nazionali, ne faccio uso anch'io, che è la droga, di cui sì, le facevo accenno prima. Lei si sente di dire, dall'alto le sue responsabilità, che oggi i nostri comuni sono un po' più tranquilli da questo punto di vista, o c'è una recrudescenza di questa tipologia di crimine? Beh, guardi, il fenomeno, come è noto, appare molto presente nel nostro territorio, sia in relazione al consumo di sostanze stupefacenti che per la presenza, così come accertato da attività di indagine condotte sino a poco tempo fa, di pusher che al dettaglio procurano della droga, della sostanza stupefacente. Quindi mi risulta un po' difficile dire che attualmente sia in calo rispetto al passato. Cambiamo argomento, entriamo un po' sul personale, si fa per dire. Capitano Vecchio, cos'è per lei, per un tutore dell'ordine, per un ufficiale dell'arma dei Carabinieri, cos'è per lei il senso dello Stato? Ma in maniera semplice e diretta posso dire che lo Stato siamo noi. L'intera comunità italiana, ogni singolo soggetto è parte integrante dello Stato ed in esso agisce ed opera, ricoprendo un ruolo ben preciso, attraverso lo svolgimento della propria professione o mestiere, anche con attività di natura privata. Il singolo può fornire un contributo alla comunità tutta e quindi allo Stato. È naturale che, come in ogni comunità, vi è bisogno di creare un sistema di regole che prevedono cosa sia lecito e cosa non lo sia, finalizzata alla tutela dei diritti del singolo e attraverso di essi di tutta la comunità. Comandante, quali sono per lei i punti cardini imprescindibili nel condurre la sua professione? I punti di riferimento maggiori? Certo. Io ritengo che per un appartenente all'arma sia fondamentale nello svolgimento delle quotidiane attività, soprattutto a contatto con la cittadinanza e soprattutto nei casi in cui si proceda alla contestazione di una violazione normativa, il giusto equilibrio fra fermezza, rigore, decisione ed umanità, buonsenso, tatto ed educazione. È da aggiungere che secondo me anche l'equità, la riservatezza e la discrezione sia opportuno che caratterizzino l'operato di un carabiniere. Lei è anche padre e marito, oltre ad essere un responsabile delle forze dell'ordine, anche papà. Dunque, lei mi auguro, cioè, presumo che dialoghi spesso con i suoi figlioli. Oggi i giovani si dice che non hanno dei punti di riferimento. La politica, giusto per citarne una a caso, si è un po' frastagliata, non ci sono più i vecchi partiti, le vecchie ideologie, ci sono dei trasversalismi, no? Quindi i giovani hanno un po' perso, secondo me, non il senso di cosa può essere la vita, ma non hanno dove agganciarsi per avere un futuro che abbiamo avuto noi. Cioè, noi eravamo certi che facendo l'accademia si diventava capitano dei carabinieri, facendo la carriera forense si poteva diventare pretore, questore e quant'altro. Oggi queste situazioni in un complesso globalizzato a livello internazionale, poi la depressione economica che è arrivata, ahimè, non consente più ai giovani di sognare, anche se il sogno resta la parte focale di un individuo. Senza il sogno non si va da nessuna parte. Secondo lei, lei consiglierebbe ancora ai giovani, se ne avesse la possibilità di poterglielo chiedere, di entrare nell'arma dei carabinieri? Perché dovrebbero entrare, per esempio, nell'arma, oltre che in altri corpi di polizia? Beh, certamente sì, che lo consiglierei. Io ad un mio figlio consiglierei di scegliere per il proprio futuro ciò che ritiene più congeniale alla propria indole e ai propri desideri. Nel caso in cui dunque questi mi esterni la propria volontà ad arruolarsi nell'arma, mi lascerei compiere la propria scelta in piena libertà, ricordandogli che è una professione che richiede molti sacrifici personali, ma nel contempo, se svolta con la giusta passione ed entusiasmo, può comportare numerose soddisfazioni derivanti da ciò che si è riuscito a compiere a servizio della comunità e anche del singolo cittadino. Comandante, il tempo a nostra disposizione, noi potremmo parlare una vita, ma capisce che per ovvi motivi di tempo ciò non è possibile. Poi lei è una persona molto a modo, molto disponibile, di questo la ringrazio. Grazie. Ma un'ultimissima domanda mi sento di porgliela, ed è questo: lei sa che l'arma nei secoli, soprattutto negli ultimi anni, ha perso molti dei suoi figli in assedia, poi anche sulla strada, insomma, nei conflitti a fuoco, sia ufficiali, sottufficiali, militari semplici. Secondo suo modesto punto di vista, la gente, quella comune, è stata ed è vicina all'istituzione dell'arma e ha ancora fiducia nella medesima? Lei lo percepisce questo stato sul territorio? Guardi, purtroppo sia in un passato ormai remoto che in tempi più recenti, molti carabinieri hanno perso la propria vita nel compimento del proprio dovere in diverse circostanze. Da ciò che ho potuto constatare, le persone, ogni volta che è accaduto un evento del genere, si sono sempre mostrate molto vicine alle istituzioni e anche ai familiari delle vittime. Il ricordo più vivo che attualmente mi sovviene è quello legato all'attentato di Nassiriya, a seguito del quale l'arma ha ricevuto molteplici attestati di vicinanza e solidarietà dalla gente comune, che spesso, parlando anche nei più piccoli paesini con i carabinieri del posto, esprimevano la loro amarezza per quanto accaduto. Più in generale, e tralasciando i dati di alcuni sondaggi che vengono diffusi annualmente circa la vicinanza dei cittadini alle varie istituzioni, che vedono l'arma sempre in posizioni di rilievo, ritengo che le persone nutrano un sentimento di fiducia nei confronti dell'istituzione. Seppur a volte alcuni episodi che hanno visto protagonisti dei nostri colleghi in circostanze incresciose possono aver nuociuto all'immagine dell'arma, io credo che l'opera quotidiana dell'intera istituzione faccia sì che l'uomo comune possa riporre fiducia nei nostri confronti. Vede, il ruolo del carabiniere è soprattutto quello di essere fra la gente, capire eventuali problematiche e, per quanto possibile, risolverle. Certo. A tutt'oggi, soprattutto nei piccoli centri, la stazione carabinieri e in primo luogo il suo comandante risulta un punto di riferimento per la popolazione locale, non solo per circostanze di carattere penale o amministrativo, ma anche spesso per la soluzione delle problematiche quotidiane di natura familiare, personale, che possono essere risolte con un buon consiglio e magari con il buon senso del vecchio pater familias. Chiudo con una vostra massima: ubbidir tacendo e tacendo morir. È ancora valida questa massima vostra? Ma io credo di sì. Grazie capitano per avermi concesso la grazie a lei, alla redazione, l'intervista. Grazie. Le auguro un proficuo lavoro. Grazie. A lei, grazie e ai suoi uomini. Un saluto a tutti. Bene, era il comandante, attuale capitano dell'Arma dei Carabinieri, comandante della compagnia di Cefalù, il dottor Vecchio Enrico, che ringrazio ancora per essere stato con noi. Ma prima di passare al secondo ospite, e come giusto che sia, noi senza sponsor non riusciamo ad andare avanti, non siamo la RAI, come vi dico sempre, vi ricordo sempre che vive di canone, noi viviamo invece di quello che la gente, o per meglio voglio dire, le aziende mettono a disposizione i cosiddetti sponsor. Vi volevo parlare di uno sponsor che è particolare, perché la mattina quasi tutti facciamo colazione, spesso si va al bar, ma io vi suggerirei di andare invece a comprare del buon latte e dello yogurt straordinario a Bergi. È un'azienda zootecnica e vi assicuro che potete vedere tutte le fasi di trasformazione del prodotto, dalla mungitura arrivare alla pastorizzazione e poi dulcis in fundo la parte finale, che è quella dell'imbottigliamento o della messa in opera dello yogurt. Lo yogurt c'è, cioè quello bianco, la banana, i frutti di bosco, sono prodotti veramente gustosi, buoni, non sono prodotti industriali che sono parimenti buoni, ma questo è un prodotto particolare perché viene tirato fuori da un latte che la mucca mangiando e mangia nei territori nostrani ancora incontaminati delle Madonie, per cui andate all'azienda zootecnica Bergi, ricordate questo nome, comprate il latte che è intero e poi gli yogurt. Quando mi incontrate per strada mi dite: mi hai dato una saggia idea. Azienda zootecnica Bergi, dunque latte fresco, formaggi e yogurt di Antonio Castiglia, lo trovate a Castelbono sulla strada che porta per Geracisicolo. Vi do il numero del cellulare per chi volesse chiamare per sapere se l'azienda è aperta o chiusa secondo gli orari, è 338-86-82596. Latte Bergi e buona colazione a tutti. Se invece volete divagarvi un pochino un venerdì, un sabato e domenica, dovete andare ad Acque Dolci in provincia di Messina al Il Geranio, ristorante, pizzeria, rosticceria, piscina, ludoteca, campo di calcetto e poi il mare a 20 metri. Quindi cosa dovete fare? 16 stanze a disposizione, arrivate di venerdì, prenotate la stanza, poi se di pomeriggio vi fate magari un po' di jogging sulla spiaggia, visto che ancora non siamo nel periodo estivo, i ragazzi vengono trattenuti nella ludoteca, quindi con vostra moglie, la vostra fidanzata, potete divagarvi come meglio vi pare. Volete farvi la partita di calcetto? C'è anche quello. Cosa volete di più? Poi la pizzeria col forno a legna, ragazzi, una pizza straordinaria, l'ho gustata, è meravigliosa, vi consiglio Il Geranio, una pizza particolare. E poi le grigliate di pesce a mezzogiorno o alla sera a cena, invitate anche i vostri amici, portate veramente un pezzo di mare sotto il vostro palato. Il Geranio lo trovate ad Acque Dolci, incontrate a Buffone Marina, accanto proprio al campo sportivo ad Acque Dolci. Detto questo, io darei adesso la parola, se vi interscambiate, sì, il posto, sì, no, possono fare anche così, no, può rimanere allora, può rimanere. Passiamo a parlare di politica, è il momento, c'è l'assessore designato che sorride. Cerchiamo un parere al capitano. Adesso insomma il capitano si rilassa un pochino, si riposa un po' e parliamo invece, conosciamo, anzi meglio direi così, questo personaggio che a dir di molti non era castelbonese o quantomeno ha vissuto molto fuori, quindi che non conosce le tematiche del paese, le problematiche, non conosce molti paesani, non sa dove è via del tale o contrada tal dei tali. Dottor Norata, cominciamo da qui. Lei nasce a Castelbono, dove, come, quando e perché? Io sono puro sangue castelbonese, da mamma. Ho detto puro sangue, papà da castelbonese. E i nonni da diverse generazioni. Poi per motivi di lavoro è nato e vissuto a Castelbono, ho studiato anche a Cefalù, nelle scuole superiori. Così conosciamo anche Cefalù. Sì, infatti. Beh, dalle prime battute si vede che non è così serioso, perché molta gente vede il dottor Norata, quando non era investito da questa futura carica, ci auguriamo che il tempo ci dia ragione, che passeggiava per la sala sempre serio con la sua signora, insomma un serio professionista, ricordiamo che è anche un responsabile all'università per la parte tecnica, mi pare, informatica, per cui ha i suoi impegni, cioè lui è un liquidatore del lato A5 che ha funzionato benissimo fin quando lui gestiva e sta continuando a farlo, poi deve spogliarsi da questa carica perché se dovesse essere eletto sindaco è chiaro che diventa incompatibile e quindi, voglio dire, va ad abbracciare un altro aspetto importante di una vita. Bisogna a volte essere anche serio, non sempre si può ridere. Lei perché è sempre così serio, sindaco? Scusi. un lapidus, disse una volta mio amico. No, voglio impostare dialettica con lei, non in maniera formale come si fa con i dogmi, no? Come il classico giornalista che chiede: ma lei quanto pensa, cosa? No, facciamolo in maniera più gioviale e giovanile. Prego. Credo che ci sono momenti in cui ci si può consentire di essere più liberi nei comportamenti, ma ci sono momenti in cui la serietà è d'obbligo, specie quando si gestisce la cosa pubblica, che è un bene comune, e quando si parla del bene comune o della persona. Sono momenti nei quali nessuno di noi si può permettere di scherzare e credo che anche i comportamenti quotidiani devono essere chiari e inequivocabili, perché su certi temi, e mi riferisco veramente quando si parla della persona, dei diversamente abili piuttosto che degli anziani o dei bambini, non si può che essere seri, perché si affrontano problematiche che toccano la sfera umana. E per dirla di più, anche quando si parla di lavoro o nell'ambito dell'istituzione o nell'ambito della propria azienda, pubblica o privata che sia, essendo che sfera è sfocia nella sfera produttiva, dove intaccano i lavori, ma anche la partecipazione di uomini che sono impegnati quotidianamente con il lavoro e con i servizi che rendono, credo che opportunità vuole che ognuno di noi si comporti in maniera seria. È doveroso per un senso civile, è un doveroso rispetto dell'interlocutore ed è anche indispensabile per fare capire che non si sta scherzando in quei momenti. Dunque, io l'altra sera ho sentito i nomi dei futuri assessori da lei designati, devo dire sono giovani, giovanissimi, quindi questo cambio generazionale paventato dai più, insomma, mi pare che nella sua lista questo ci sia stato. Mi ha un po' stupito invece un'intervista che ha rilasciato il candidato sindaco di Castelbuono, l'ingegnere, l'avvocato Polizzotto, il quale su una trasmissione andata in onda domenica ultima scorsa, gestita dal mio direttore responsabile, rilascia questa dichiarazione che sono state firmate da parte dei castelbonesi per 10 anni, quindi il riferimento all'attuale amministrazione in carica è del tutto chiara, delle deleghe in bianco, cioè come se i castelbonesi non si fossero mai occupati della res pubblica, ma soltanto l'attuale sindaco, la sua giunta, ha preso possesso come un despote, come un tiranno dell'intera nomenclatura politica del paese. E poi aggiunge e parla di arricchimento personale e di lobby. Lei che è castelbonese, cioè abbiamo qui anche un ragazzo che vive a Castelbuono, quindi voglio dire, secondo lei ci sono questi arricchimenti personali, ci sono queste lobby, insomma, che si sono acquartierati dentro questo palazzo municipale, oppure sono delle mere chimere? Non so chi si può permettere di fare queste affermazioni. No, perché sono registrate, quindi voglio dire, sono di non dell'altra serie, ho ascoltato. Io non vorrei scendere nel merito della questione, penso che chi si è espresso non conosce i castelbunesi, perché se parliamo di castelbunesi ci conosciamo tutti, è un paese di 9.500 abitanti, penso che ognuno di noi conosca l'altro, conosce la storia dell'altro, da dove viene, cosa possedeva magari la famiglia e cosa possiede adesso. Io penso che tutto si possa dire del sindaco uscente Mario Cigero, fuorché meno che si sia arricchito con la politica. Parla di arricchimenti personali. Ma non mi sembra che abbia acquisito immobili o azioni, per quello che lo conosco io. Poi è chiaro che ognuno di noi può nasconderci qualche lato che non ci è dato conoscere. Certo. Però da come lo conosco io potrei mettere la mano sul fuoco che si sia arricchito con la politica. Lui è un uomo che ha lavorato credo 23 ore al giorno per il paese, per non dire 24 ore, perché almeno un'ora di sonno glielo dobbiamo pure concedere, ma sicuramente ha lavorato 23 ore al giorno con dedita passione e senza deleghe in bianco, perché se pensiamo per un attimo al dibattito acceso che c'è stato per la semplice piastrella che è caduta nel prospetto del comune, capite bene che deleghe in bianco il castelbonese non ne rilascia a nessuno, fuorché meno al sindaco che amministra Castelbuono. Né tantomeno posso pensare che a Castelbuono esistono lobby di qualsiasi genere. E a Castelbuono esiste uno strumento che negli anni, e forse potrei dire anche nei secoli, è servito parecchio per lasciare trasparenza anche alla gestione della cosa pubblica o nella sfera privata, che è uno strumento particolare. Ed è la satira. La satira che si manifesta nel suo massimo splendore nel periodo di carnevale, ma che in certe circostanze si manifesta anche durante il corso dell'anno. Lì i gruppi che fanno satira tirano fuori di tutto e di più. Quindi se c'è un benché minimo dubbio, un'ombra, qualche cosa che viene celato su una persona, quello è il momento ideale per cui viene fuori. E nessuno se ne abbia male, perché è così. Nella storia dei castelbuonesi è sempre stato così. Noi che siamo castelbuonesi ci siamo abituati e la prendiamo come una cosa normale, ma come anche uno strumento di controllo sull'attività di chi opera e lavora a Castelbuono sia nella sfera pubblica che privata. Beh, è stato abbastanza esaustivo nella risposta, voglio dire. E più tardi, tra poco, desideravo anche... Si accomodi qui, Assessore, la prego, perché è abbastanza giovane, quindi vorrei anche un suo... Sì, il dottore Vignieri è uno dei miei assessori designati. Io mi permetto... Prego. Perché lei citava l'assemblea di domenica dove ho presentato l'intera squadra di governo. Sì. Ivi compresa la lista per il Consiglio, ma anche quella degli assessori con le relative deleghe. Noi non abbiamo voluto lasciare spazi d'ombra nella definizione delle liste e nell'assegnazione delle deleghe, per non dare spazi nemmeno a trattative di sorta. Ma abbiamo voluto anche da subito concretizzare ciò che da sempre, da quando io ho deciso di rendermi disponibile per questo impegno politico, ho dato come slogan il ricambio generazionale. Ricambio generazionale che già con questo primo atto abbiamo voluto concretizzare fortemente. La lista di 15 candidati al Consiglio già è composta di 8 sotto i 30 anni e la dice lunga. E anche qui la presenza dell'assessore Ma anche Vignieri. La rappresentanza femminile mi pare che sia ampiamente siamo andati oltre la quota rosa, che è un termine orrendo che la norma impone, l'abbiamo ampiamente rispettata. E nella squadra della Giunta c'è anche un assessore donna. Ma dicevo, ci sono due assessori in particolare che sono due giovani, uno dei quali è qui presente. Mi pare che lui abbia la delega all'ambiente, se non territorio e ambiente, ora ne parla lui. Adesso ne parliamo. Allora, giovanissimo, già in prima pagina, cioè già abbiamo messo il viso su quelle che saranno le future responsabilità di governo, voglio dire, e con tutti i nessi e connessi che questo rappresenta. Ti posso dare del tu? Certo. Allora, Vignieri, tu sei giovane, hai 27 anni. Vedete che insomma Norata non si smentisce, è una lista fatta di giovani. Ti faccio una domanda che può sembrare retorica, ma dalla tua veneranda età di 27 anni, come vedi la politica locale? Perché a me sa che c'è un po' troppa nebbia, non si riesce a vedere bene. Tu come la vedi da giovane, come la vivi da giovane l'esperienza politica? Come dovrebbe essere e come tu la vivi? Beh, innanzitutto buongiorno, ringrazio per avermi dato la parola. Ma l'esperienza politica, quella che ho vissuto io in questi ultimi 5 anni in Consiglio Comunale, sono stato eletto nel 2007 con la lista di Mario Cicero, e anche prima di essere eletto in Consiglio Comunale militavo all'interno dei Democratici di Sinistra e poi nel Partito Democratico. L'impegno politico nei partiti presuppone una condivisione rispetto a quella che è la politica nazionale del partito, un impegno su temi di carattere nazionale. Nel contesto locale è necessario fare qualche differenziazione, perché è necessario approfondire gli argomenti della politica locale, interessarsi al dibattito culturale locale da un lato e amministrativo e politico dall'altro. Inevitabilmente l'impegno in Consiglio Comunale è un impegno costante, deve essere quotidiano, settimanale, bisogna partecipare, interagire con la collettività, percepire quelli che sono i problemi, i bisogni e farsi, diciamo, portavoce all'interno del consesso comunale. Inevitabilmente questo comporta studio, dedizione, capire quali sono i problemi, approfondire le pratiche, avere un colloquio con gli uffici, e questo, diciamo, è il problema, il gap che bisogna colmare nell'approccio alla politica, perché fare riflessioni di carattere generale o se vogliamo costruire castelli è una cosa che si può fare, la può fare chiunque. Poi il sogno, voglio dire, non si paga. Esatto, il sogno non si paga. Poi al momento in cui bisogna tradurre questo sogno in realtà attraverso atti amministrativi, il discorso è un po' diverso, e quindi è necessario un approfondimento sull'argomento, che non deve essere, appunto, quanto approfondimento non può essere superficiale e non può essere gestito in pochi giorni. Allora, prima di dare la linea alla regia per la giusta pubblicità anche della radio, una domanda mi corre d'obbligo. Si parla di territorio ed ambiente. Oggi ci sono delle sacche di pericolo per l'ambiente. Si parla di questi famigerati cinghiali che stanno un po' mettendo sotto sopra mezzo quadro delle Madonie, ma non è solo quello, si parla delle discariche, si parla di tubature obsolete che stanno creando dei problemi a livello idrico a Castelbuono. Poi non so se è di vostra conoscenza, ma c'è stato uno studio di settore da parte, mi pare, dell'Università di Palermo su un'incidenza maggiore rispetto agli altri comuni vicinori di tumori a Castelbuono. Quindi tu, che sarai il futuro assessore al territorio e ambiente, hai già preso le misure delle cose che devono essere cambiate, che devono essere poste? Qual è il tuo primo atto non appena ti insedierai? Cioè un atto, voglio dire, da assessore, cioè hai già individuato delle cose che non vanno, secondo me, no? E quindi? Sì, sicuramente, come dire, il primo atto, ancora non ho pensato, diciamo, al primo atto, perché c'è una competizione, diciamo. No, dico nel caso in cui, attenzione, usiamo il condizionale, non sì. Ti ho già investito nella carica, se dipendesse da me, voglio dire, non dipende da me. La competizione di interventi, comunque, lui parlava, non parlava della competizione politica. Ah, ecco, di interventi. Riguardo, diciamo, al tema dell'ambiente, noi l'abbiamo detto anche, anche Peppe Norato l'ha detto, diciamo, in maniera netta nel dibattito delle primarie e in questi comizi, in questi primi comizi assemblee che abbiamo tenuto. Inevitabilmente la pianificazione territoriale deve avere come punto di riferimento l'ambiente e il cittadino, quindi, diciamo, la visione sarà sicuramente questa, con un'attenzione particolare al territorio, al problema idrogeologico. Quindi questo sarà sicuramente uno degli aspetti principali di cui terremo conto. Ovviamente continueremo nella strada che abbiamo intrapreso sulla raccolta differenziata, sarà un secondo elemento. Per quanto riguarda la considerazione che faceva lei sull'incidenza dei tumori, proprio nello scorso consiglio comunale il sindaco ha fatto recapitare una nota a un consigliere comunale che aveva fatto la sua stessa osservazione. In realtà, rispetto alla media dei comuni delle Madonie, Castelbuono si trova al di sotto di questa media e al di sotto anche della media regionale per quanto riguarda l'incidenza dei tumori nel nostro comune. Bene, vedo l'idea abbastanza chiara. Vedete che poi i giovani, non è vero che non sanno dove andare, hanno le idee chiare e le capacità per portare avanti i loro progetti in comunione, chiaramente, con l'amministrazione comunale e con i cittadini. Non per questo è stato scelto. Lei ha la battuta. Quindi ci fermiamo un attimo, prendiamo un po' di fiato, devo fumarmi la mia sigaretta, ragazzi, quella è, insomma. Do la linea alla regia per la pubblicità della radio e poi riprendiamo questa discussione con i due esponenti della lista Norato, il sindaco futuro, e il futuro assessore. Linea da regia. Pubblicità. Fatti trovare su internet. Per la tua vetrina online, affidati ad un professionista del web marketing. Maggiori info su madoniexpo.com. Ripeto, www.madoniexpo.com. Che convenienza trovi da Hub, insieme a tanta scelta e qualità. Fino al 25 marzo, sotto a chi compra! Olio extravergine di oliva da 750 ml, 1,99 €. Coca-Cola lattona da mezzo litro, 50 centesimi. Macchina da caffè espresso Gaggia, 59,90 €. Hard discount, in Sicilia e Calabria. La spesa per tutti, di tutto e di più. Per la tua spesa c'è solo Hard. Arredi Madonia Vincenzo e figlio, quello del Ghirigoro d'oro. Oltre 40 anni di esperienza e ricerca. Piazza San Leonardo 7 a Castelbuono. Ristorante Pizzeria Kenzia al Trappito da Nicola. Per una cena indimenticabile con piatti particolari, decorati con estro e fantasia. Per la pizza con gli amici, gustosa e ricca di ingredienti di qualità. Nel centro storico di Cefalù, in via Bordonaro 96. Per prenotazioni e info 0921 42 38 01. Ristorante Pizzeria Kenzia al Trappito, con suggestiva terrazza sul mare. Kenzia al Trappito vi ricorda che anche d'inverno potete godere lo spettacolo del mare con la terrazza coperta. Stuzzico, fast food pizzeria a Cefalù. Pizze piccole e familiari, primi e secondi piatti veloci, da consumare sul posto o da asporto, insalate fresche e fantasiose e le specialità, panini, piadine, kebab e piatto kebab, panini con hamburger e con porchetta e il gelato soft. Da Stuzzico, menù fisso a base di carne 12 euro, di pesce 15 euro. Stuzzico e anche rosticceria Mignon, catering. Stuzzico è ideale per festeggiare compleanni e ricorrenze particolari. Stuzzico, fast food pizzeria, anche servizio a domicilio. Via Roma 39, telefono 0921 42 35 42, Cefalù. Da Stuzzico anche panini di vari gusti piastrati, pane con la milza e crepe. I Gattopardi Sicilia. Arte, storia, sport, cultura, sicilianità. Partecipa con noi per la difesa della nostra terra e delle antiche tradizioni. Iscriviti e diventa il referente locale dei Gattopardi Sicilia. Visita il sito www.egattopardi.it. Se vuoi rilassarti con i tuoi amici, c'è Eolo Caffè Drink and Food al porto di Cefalù. Per un aperitivo, uno stuzzichino e anche per mangiare bene con degli ottimi panini alla piastra, la rosticceria e la friggitoria, c'è l'Eolo Caffè. Eolo Caffè, ambiente accogliente, climatizzato e video con Sky autorizzato, dove potrai gustare comodamente dal caffè al panino. Eolo Caffè, al porto Presidiana di Cefalù, per una ricchissima colazione. Aperto dalle 6. Eolo Caffè Drink and Food organizza anche feste di compleanno. Telefono 0921 925 083. Eolo Caffè è anche rivendita autorizzata a tabacchi e biglietteria marittima per le isole. Per la tua pubblicità su CRM, telefono allo 0921 423 456. Allora, rieccoci in diretta dopo i consigli per gli acquisti, sempre con il dottor Vignieri, che è l'assessore al territorio e ambiente designato, e con il futuro candidato, cioè candidato a sindaco, futuro, non si sa, punto interrogativo, perché ce ne sono tre in corsa e insomma chi mi vinca è il migliore, che dobbiamo dire. Allora, Norata, adesso siamo seri, le battute di scherzo ci stanno perché la politica è un po' drammatica negli ultimi tempi. Poco fa parlavo con un esponente qui di Cefalù, insomma anche qui ci sono delle situazioni non molto belle, ma c'è Castelbuono, grazie a Dio ancora non si è arrivati a scendere su compromessi personali, su attacchi personali, ma si parla insomma con una certa dialettica ancora, voglio dire, graziosa, abbordabile. Una domanda, allora parliamo di urbanizzazione, parliamo del centro storico, parliamo di locazioni, di alcuni eventi che succedono a Castelbuono. Uno di questi è ogni giovedì l'appuntamento con il mercato rionale. Ora, un tempo si poteva anche fare perché via Mazzini non era molto abitata, poi il paese è andato crescendo anche verso valle, e adesso lì ci abitano persone anche anziane. Allora, mettere le logge così chiamate vicino alle porte di questi signori, poi via Cefalù che si intasa, tu sai benissimo, c'è la circonvallazione ancora che non è stata completata. Nel caso in cui dovessi tu gestire la Res Pubblica a Castelbuono, cosa hai, un piano facoltativo, una dislocazione in altro luogo? Hai un'idea di come fare per evitare questi ingorghi, queste situazioni, anche perché se prende fuoco un furgone all'interno è un po' un problema. Prego. Beh, il problema del mercato rionale localizzato in via Mazzini è un problema delicato perché investe la sfera della circolazione di due arterie importanti, quale via Mazzini, via Dante Alighieri o via Cefalù, che dir si voglia. È chiaro che il problema ce lo siamo posti nella qualità di candidato a sindaco, ponendomi nell'ottica di amministrare Castelbuono. È chiaro che sto affrontando anche questa questione. Le soluzioni potrebbero essere due: trovare una soluzione tampone almeno per un certo periodo dell'anno, per una parte invernale, e magari delocalizzare alcuni aspetti dell'offerta del mercato in zone diverse del tessuto urbano. E viceversa, si deve trovare una soluzione più idonea rispetto alla via Mazzini, che attualmente risulta poco accessibile, non la solo più frazionata, vuol dire. Sì, abbastanza. Senti, molti cittadini lamentano il fatto che la viabilità in generale, ma le strade, soprattutto, cioè i manti stradali, lasciano un po' il tempo che trovano. Vedi, per esempio, dietro il castello a scendere, insomma, sono delle buche che ogni tanto un muratore del comune va a sistemare, ma è ben poca cosa. Per quanto attiene questa problematica, invece, come pensi di poterla affrontare nel caso in cui sei tu a gestire le sorti del paese? Cioè la pavimentazione, sì. Sì, il problema non è solo adiacente il paese, perché il patrimonio comunale, della viabilità comunale e anche extraurbana, e mi riferisco in particolare alle strade interpoderali che spesso danno la possibilità agli agricoltori, agli allevatori di raggiungere le proprie sedi lavorative, sono effettivamente in uno stato di degrado non indifferente. Negli ultimi anni purtroppo i flussi finanziari si sono assottigliati per gli interventi. Penso che è in fase di attivazione un sistema di mantenimento e quindi di intervento di alcune delle strade extraurbane e interpoderali su cui a breve l'amministrazione uscente addirittura ha programmato già degli interventi. Io personalmente ritengo che dovrà essere messa a regime un sistema di manutenzione ordinaria delle strade che consente un mantenimento più a lungo, per cui un sistema di pulizia delle cunette, delle scarpate, per far sì che l'assetto stradale non venga intaccato da fenomeni erosivi dovuti magari a fenomeni atmosferici e anche franosi. E anche franosi che investono poi la strada a tutti gli effetti. Quindi procedere in tal senso è chiaro che è doveroso per un amministratore, ma puntare a una programmazione seria del mantenimento ordinario delle infrastrutture è anche altrettanto doveroso. C'è un punto particolare nel tuo programma di lavoro che esporrai non appena avrai l'opportunità di farlo, se non l'hai già fatto, perché io vado e vengo da Castelbuono, perché lavoro anche fuori. Hai toccato dei punti cardini del tuo programma, ce n'è uno in particolare che tu ritieni molto interessante da applicare poi nel futuro della tua legislatura a Castelbuono? I punti programmatici sono tutti importanti, altrimenti non sta lì a ragionare. Citiamone un paio. Giusto per far capire. Io ho fatto mie due direttive su cui ho impostato il mio impegno anche per amministrare Castelbuono, e mi pare che una già abbiamo dato avvio a realizzarla, ed era il cambio generazionale. Questo è per me fondamentale, perché ma il cambio generazionale non significa solo età anagrafica, significa anche linfa nuova, apporto nuovo, idee nuove. Che possono contribuire sicuramente alla crescita del paese. Questo è fondamentale. E mi pare che già siamo sulla buona strada, avendo individuato veramente tanti giovani che credono nel nostro progetto, che stanno investendo nel nostro progetto. Io colgo l'occasione per ringraziarli. Devo ricordare che attualmente perlomeno 60 persone, di queste almeno 50 sono ventenni, stanno lavorando al programma elettorale di Giuseppe Norata. Questo la dice lunga, perché significa che i giovani si sono avvicinati alla politica perché hanno capito che, almeno con il nostro schieramento, possono contribuire direttamente con un programma condiviso alla realizzazione di un progetto per il nostro futuro, perché noi ci proiettiamo a governare Castelbuono per i prossimi 20 anni. E allora il cambio generazionale al primo posto è fondamentale. E l'altro aspetto che investe tutta la sfera amministrativa è la Castelbuono solidale. Noi questo è il nostro sogno più grande, partendo proprio dai giovani, che spesso sono impegnati in volontariato, in attività di sostegno, anche in ricerca. Ecco, realizzare la Castelbuono solidale è un sogno che vogliamo dare ai castelbuonesi e ai giovani in particolare, perché puntando sulla solidarietà diffusa, a qualsiasi livello, nel campo imprenditoriale piuttosto che professionale, dell'assistenza agli anziani, piuttosto che dei portatori di handicap o dei diversamente abili, alle donne, ai bambini e così via. E questo è fondamentale perché crea e fa crescere il senso di appartenenza a una comunità. A me l'hanno insegnato le confraternite, che hanno una loro storia, una loro tradizione nel campo della solidarietà diffusa, e lei sa benissimo, frequentando Castelbuono, qual è l'apporto delle confraternite nella comunità castelbuonese. Ecco, rilanciare questo aspetto della Castelbuono solidale per me diventa un altro atto molto importante di amore verso il paese. Dottor Norata, c'è un aspetto che la riguarda molto da vicino, visto che lei è parte integrante del lato Palermo 5, il liquidatore attuale. Sentendo in giro, da Piazza Margherita a salire, a scendere, eccetera, incontrando le persone, ci sono state delle lamentele per quanto attiene la differenziata a Castelbuono, perché molte persone dicono chi vive in paese può essere agevolato da questa formula, insomma, di prendere i sacchettini, diversificarli e poi andarli a portarla in discarica, ma chi, una persona anziana che vive nella parte alta del tipo Liccia, ecco, la parte alta del paese dove sono delle villette sparse, eccetera, che peraltro è un fiore all'occhiello anche di Castelbuono, perché d'estate quando si illumina tutto quella, tutte quelle campagne sembra di vedere Roma dall'alto con l'aereo, no? È una bella, un bel vedere. Cosa si può fare per agevolare queste persone che lamentano il fatto di magari non deambulare bene, di non avere la possibilità di guidare, quindi di trasportare, mentre prima c'erano i cosiddetti cassonetti che insomma a due passi mettevi lì e la persona anziana era a posto. C'è questo problema che non è enorme, ma lo si può affrontare, voglio dire, come pensi di affrontarlo? Sì, sicuramente si può affrontare meglio, però come primo tassello il sottoscritto non ha guardato l'interesse elettorale, ma ha guardato l'interesse per il bene comune e per l'ambiente in particolare. Le 5 postazioni che abbiamo eliminato erano vere e proprie discariche abusive a cielo aperto. Ogni giorno raccoglievamo lì in quelle postazioni in maniera indiscriminata rifiuti di tutte le specie, leciti e anche illeciti. Più volte abbiamo dovuto fare anche delle denunzie. Castelbuono, per come è cresciuto e per come si pone anche nei confronti dell'ospite che viene a Castelbuono, non poteva permettersi di mantenere ancora in vita questi atti di inciviltà, e specie l'amministrazione pubblica non li doveva più tollerare. Credo che nessuno di noi voglia i cassonetti sotto casa o prospiciente il proprio terreno. Anche perché con l'avvento dell'estate sono diventato una cosa bontola, non si vive bene, sì. E allora, come primo atto abbiamo eliminato il danno. Ribadisco, era un atto di inciviltà mantenere queste postazioni. Adesso stiamo adottando degli accorgimenti. Gli accorgimenti sono che l'isola mobile che abbiamo individuato presso il macello comunale ha un'altra flessibilità di orario di apertura, compresa la domenica pomeriggio. Ma c'è di più: dal primo di aprile, e non è uno scherzo, perché quando parlo di lavoro non scherzo mai, faremo la raccolta anche nelle campagne. La zona extraurbana sarà divisa in 6 macro aree e andremo a prendere l'indifferenziato, perché la legge adesso ci impone, non è una facoltà del dottore Norato, del legale rappresentante di Ecologia e Ambiente, impone il gestore di guardare dentro l'indifferenziato, perché è un obbligo di legge fare la raccolta differenziata ormai, oltre che un piacere deve essere nostro per l'ambiente, a tutela dell'ambiente. E qui noi adotteremo gli accorgimenti per andare a prendere a casa l'indifferenziato al cittadino che non può deambulare. Ma io dico anche un'altra cosa in più. Per quello che si è fatto nell'ambiente proprio a Castelbuono, una multinazionale ha voluto investire a Castelbuono finanziando un'isola ecologica che realizzeremo ora, nei prossimi mesi. Siamo in attesa di aver affidato il sito e si trova presso l'area artigianale a Piano Marchese, e in questa isola ecologica sarà attivato anche un sistema premiante per il cittadino che ci porta i rifiuti presso l'isola ecologica. E allora vedrà che quando si attiva il sistema premiante tutti i cittadini avranno voglia di portarci i rifiuti presso la nostra isola ecologica. Beh, fino a quando lei ha gestito le sorti del lato, fino ad oggi insomma mi pare che le cose siano andate nel giusto verso, quindi non ho dubbi sull'impegno che lei metterà per attivare questo nuovo sistema di diversificazione di raccolta. Ma guardi, mi permetto un attimo un breve inciso per dare un metro e una misura. Proprio ieri è stato denunziato un evento definito come evento calamitoso, il fatto che ancora la Sicilia, in termini di percentuali di raccolta differenziata, conta massimo le dita di una mano, cioè non arriva ancora al 5%. In Lombardia siamo molto, ma molto, molto avanti. E il nostro ATO Palermo 5 ha chiuso il 2011 al 30% su scala d'ambito di raccolta differenziata. La dice lunga questa di qua, in termini di gestione del servizio, ma anche in termini di gestione dei rifiuti. E specialmente per una frazione, la più pericolosa in assoluto, Ecologia e Ambiente ha chiuso anche il ciclo, cioè trasformando la frazione organica, perché parliamo proprio della frazione organica, presso un impianto di proprietà di Ecologia e Ambiente, che si trova proprio a Castelbuono. Falla apposta, ma io l'ho trovato finanziato proprio su Castelbuono, e proprio per questa frazione abbiamo chiuso il ciclo integrato dei rifiuti. Le altre frazioni sono di competenza della sfera privata, manca qui in Sicilia effettivamente un indotto che trasformi la materia prima seconda, viene definita in questo modo, per riutilizzarla nell'industria. Questo purtroppo manca, ma è una carenza strutturale del sistema produttivo siciliano.

just won't play tonight. Now do you want to stay tonight? Let me know. CRM. Pubblicità. Fatti trovare su internet. Per la tua vetrina online, affidati ad un professionista del web marketing. Maggiori info su madoniexpo.com. Ripeto, www.madoniexpo.com. Sei tu la donna della mia vita. Voglio condividere tutto con te. E voglio avere 4 figli. Anzi, 5. Facciamo 7. Ma dove vai? Nuova Peugeot 107, Independence Way. 107 Active 5 porte, con clima, radio CD, Bluetooth, USB, pari a LED e fendinebbia. È tua a 99 euro al mese. TAI GOT 42. In più, un anno di casco gratis con polizza furto incendio. Scade il 31 marzo. Info su Peugeot.it. AICA, concessionaria Fiat, Lancia e veicoli commerciali. Ci trovi a Termini Merese, via Lungomare Cristoforo Colombo 4, a Cefalù, via Roma 91 e a Bagheria, via Federico II 40 ex locali Cofilpa o consulta il sito aicasrl.it. A Cefalù, al numero 66 di via Mandralisca, Caffè 66, food, drink e... Nel centro storico di Cefalù, vicino al Duomo, un locale per tutti. Atmosfera calda, accogliente e amichevole. Pub Caffè 66, food, drink, creperia, panineria, bruschetteria, wine bar, birreria, insalate e piatti tipici. Lo trovate anche in internet su www.caffè66.altervista.org. Caffè 66, al numero 66 di via Mandralisca di fronte il museo. Arredamenti curati e confortevoli, studiati in ogni dettaglio. Dal prodotto concepito per le esigenze di tutti a quello più esclusivo per soddisfare bisogni e desideri di ognuno. Arredi Madonia, mobili classici e moderni. Un vasto showroom con esposizione di 25 modelli cucine Lube, dove potrete toccare con mano la qualità di cucine innovative che propongono soluzioni per ogni tipo di spazio e per ogni esigenza. Madonia Vincenzo e Figlio, una grande realtà sempre legata al territorio, che propone mobili fatti di materiali importanti e resistenti, sinonimo di qualità e al miglior prezzo. Arredi Madonia Vincenzo e Figlio, quello del Ghirigoro d'Oro. Mettiamo al servizio dei nostri clienti oltre 40 anni di esperienza e ricerca. Piazza San Leonardo 7 a Castelbuono. Telefono 0921 67 67 31. Per la tua pubblicità su CRM, telefono allo 0921 423 456. E allora rieccoci in studio, vi ricordo che sta ascoltando Carta e Penne, studio Filippo Glorioso, ospiti della trasmissione, c'è stato il comandante della compagnia locale dell'Arma dei Carabinieri, il dottor Vecchio Arrigo, capitano che comanda tutta la, diciamo, buona parte delle Madonie, e poi si ferma naturalmente su c'è Pedaria con l'altra compagnia, poi Nicosia verso sinistra, Mistretta, quindi è una buona fetta che il capitano Vecchio gestisce con l'Arma dei Carabinieri. Poi invece abbiamo il candidato sindaco di Castelbuono, il dottor Peppe Norata, che ha una lunga esperienza gestionale e in base a questo presumo possa avere tutte le carte in regola, anzi senza presumere, e così possa avere tutte le carte in regola, parimenti agli altri due concorrenti, insomma, alla carica massima del comune di Castelbuono, hanno le carte in regola per poter gestire la res pubblica, soprattutto sotto il profilo organizzativo ed economico. Ma parliamo con l'ospite che abbiamo oggi in studio, che ha già dato un ampio ventaglio di argomentazioni, coadiuvato dal candidato e già designato assessore, il dottor Vignieri. Allora, stavamo parlando di differenziata, di rifiuti, eccetera. Cambiamo un attimino pagina, perché da alcuni comizi, io ho avuto l'opportunità di ascoltare, si parla di Castelbuono che è un paese un po' a sé stante rispetto agli altri. È un sistema paese dove non diciamo l'agricoltura, ma per quanto attiene l'artigianato e alcuni fiori all'occhiello, Castelbuono ce li ha. Il turismo comincia ad esserci, ma presumo che non basti. Cos'altro bisogna fare? Perché l'altro giorno qui, nella trasmissione domenica scorsa, Sgarbi lancia una ciambella dicendo che vuole fare un consorzio tra i comuni, di fare una festa per tutti questi comuni, dove far emergere le peculiarità di ognuno di essi, perché sono tutti comuni belli, strutturati bene, ancora, grazie a Dio, puliti da molte situazioni che non si vivono più nelle grosse città, quindi siamo ancora a dimensione umana. Ma la domanda che le pongo è questa: lei, qualora dovesse essere il primo cittadino di Castelbuono, per quanto attiene il turismo e l'artigianato, quali volani metterà ancora in moto affinché venga consolidato questo aspetto? Castelbuono è un modello diverso rispetto a tanti altri comuni delle Madonie. Da sempre ha diversificato le proprie attività. Non è stato incentrato solo in una categoria, per esempio l'agricoltura piuttosto che gli allevatori o i falegnami, ma diversificando e agevolando le attività dei vari operatori è successo che nei momenti di crisi di un settore c'erano gli altri settori che trainavano. Questo da sempre ha caratterizzato Castelbuono. Questo messo insieme in un contesto programmato che le amministrazioni comunali hanno voluto nell'arco degli ultimi 20 anni in particolare, ha creato un'organizzazione del paese con un'offerta unica che si pone all'esterno rispetto alle cinta comunale. Oggi Castelbuono si pone a un adeguato livello esterno e dove l'ospite che viene a Castelbuono chiede il prodotto Castelbuono di qualsiasi genere, di qualsiasi natura. Lo testimoniano anche alcuni prodotti di eccellenza, per dirne alcuni prodotti di macelleria, di salumeria, di pasticceria e così via. Scusando il... No, non possiamo menzionare mica tutti, né tantomeno fare nomi, sennò facciamo pubblicità occulta, voglio dire, e non è consentito. Prego. Vanno recuperati invece alcune attività riconducibili agli artigiani storici. L'artigiano del ferro sta scomparendo, per esempio, o l'ebanista sta scomparendo. Lì ci dà una mano forte la nuova area artigianale. Giorno 31 l'amministrazione uscente inaugura l'area artigianale, perché l'area artigianale è un'area che ha avuto un vissuto travagliato. Partiamo dall'ex SIRAP degli anni 70, dove è successo quello che è successo, non stiamo qui a menzionarlo. Ma finalmente sono state fatte le opere di urbanizzazione, finalmente sono stati definiti i regolamenti e le tariffazioni per come assegnare i lotti dell'area artigianale. Finalmente il 31 viene inaugurata questa area artigianale e può ridare impulso tranquillamente all'artigianato locale. Credo che si possano raggiungere due obiettivi con questo strumento, che diventa strategico per la crescita di Castelbuono e per il consolidamento stesso della crescita che c'è stata in questi 20 anni: togliere alcune attività di artigiani dal centro urbano, mi riferisco per esempio a qualche officina che ancora esiste, qualche falegnameria che ancora esiste, e portarla in un contesto produttivo complessivo e dare avvio ad alcune iniziative nuove che artigiani chiedono di avviare in area organizzata. Lì è chiaro che l'amministrazione comunale deve fare la parte del leone, offrendo servizi adeguati, ma anche infrastrutture adeguate. Mi riferisco, io sono un tecnico informatico, come diceva lei, dell'Università di Palermo, e il mio pallino è l'innovazione tecnologica. Oggi non ci può essere impresa, non ci può essere professionista che non si confronta con un mercato ampio, globale. E quindi la tecnologia e la telematica sono indispensabili per l'avvio e per il consolidamento delle attività. Però il Castelbuono ha tutti i presupposti per rilanciare l'artigianato, per rilanciare l'agricoltura, per rilanciare gli allevamenti specializzati, e ha tutte le carte in regola per, prima di tutto, aggredire i mercati, anche non solo nazionale ma internazionale, perché il prodotto Castelbuono oggi è conosciuto. Le cito solo un esempio: l'altro giorno mi chiamano da Ragusa, un amico di quella zona di là era a un matrimonio e nel menu al ristorante trova un risotto con zucca gialla di Castelbuono. Allora si informa, come è legato con Castelbuono per un rapporto di amicizia, e chiede se c'era il cuoco, per esempio, la scuola di cucina castelbuonese è molto conosciuta, e poi viene a scoprire che invece no, non c'era nessuno di Castelbuono in quella sede, né tantomeno il proprietario. Però era il nome Castelbuono che il cuoco ha voluto utilizzare perché dà immagine oggi il nome Castelbuono. E noi questo vogliamo continuarlo a farlo crescere e farlo diventare un progetto consolidato che crea i presupposti per il futuro, per la Castelbuono che vogliamo per i prossimi 20 anni. Abbiamo ancora qualche minuto abbondante. Una domanda la pongo a entrambi, perché lui, essendo un futuro assessore al territorio e ambiente, parte in causa, ma la pongo prima a lei la domanda. Un altro candidato a sindaco, un altro comizio, disse che bisogna rimettere in moto le costruzioni edili a Castelbuono, che sono fermi da molti anni. A lei chiedo cosa ne pensa di questa proposta del suo oppositore politico e all'assessore chiedo se il territorio è nelle condizioni di poter sopportare eventuali altre costruzioni qualora ce ne fosse bisogno, perché mi dicono che già in proporzione abitanti costruzioni dovremmo pure esserci. Prego. Ecco, già una parte della risposta l'ha data lei. Io aggiungo che, perché un po' mi sono documentato, è chiaro, perché uno che si candida a sindaco deve quantomeno conoscere ciò che trova. Le difficoltà che ci sono, certo. Sono in corso delle varianti allo strumento urbanistico e si è in attesa da parte dell'assessorato competente, il territorio ambiente della Regione Sicilia, perché approvi queste varianti. Le varianti sono indispensabili per l'avvio di alcune attività. Questo è il primo passo per cui l'amministrazione è chiamata, qualsiasi essa sia, di qualsiasi coloro, a seconda se presieduto da Giuseppe Onorato o da l'altro candidato, poco importa, però questi sono strumenti ormai avviati e devono essere perseguiti. Lei diceva bene sulla necessità di edificare o meno, specialmente per quanto riguarda la civile abitazione. Il numero dei residenti è ormai pressoché costante a Castelbuono e devo dire che rispetto al fabbisogno ancora il vecchio piano regolatore ha dei lotti che non sono stati ancora edificati, quindi andare a ricercare lotti nuovi diventa un pochettino difficile per chiunque va a amministrare. Addirittura, mi perdoni se la interrompo, addirittura mi dicevano che demograficamente si è scesi di 600 unità, rispetto erano 10.000 e passa abitanti, siamo sull'ordine dei 9.100-9.200 abitanti. Sì, intorno a 9.000. Erro o dico bene? Esatto, c'è stato un piccolo calo negli anni 90, ma adesso è pressoché stabile negli ultimi, credo, dal censimento penultimo a questo, credo che sia abbastanza standard, intorno a 9.300 abitanti residenti. C'è da dire invece un altro aspetto fondamentale su cui l'amministrazione si dovrà fare carico di interloquire con gli organi sovraccomunali, sovrintendenza in primo luogo, perché ci sono delle unità immobiliari nel centro storico che per le esigenze moderne non sono abitabili. E allora secondo me lì l'amministrazione che dovrà amministrare Castelbuono si dovrà far carico necessariamente di interloquire con questi organi, perché in maniera puntuale vada a vedere quali sono le esigenze del cittadino e conciliarlo con quelle che sono i dettami della sovrintendenza, per esempio. Ma parliamo di cambio e anche di prospetto eventualmente in un centro storico dove c'è una certa tipologia di costruzione, no? Parliamo di cambi di prospetto riferibili principalmente ad aperture, una finestra che potrebbe diventare un balconcino piuttosto, sì, che un lucernario farla diventare finestra e così via. E noi sappiamo che la sovrintendenza in questo è molto rigida. Molto rigida, è chiaro, sì. Ci sono delle norme abbastanza restrittive, però secondo me con la sovrintendenza, conosco diversi funzionari, sono molto aperti al dialogo, credo che sono in grado di poter interloquire con l'amministrazione e valutare in maniera puntuale le singole istanze. Dal punto di vista invece territoriale, qualora ce ne fosse bisogno, Castelbuono ha le possibilità, le chance da potersi giocare con il proprio territorio per un'eventuale espansione di costruzioni edili civili? O ci sono dei vincoli paesaggistici, dei vincoli che vanno a cozzare poi con questo tipo di approccio? Sì, sicuramente ci sono dei vincoli paesaggistici, per cui diciamo pensare di individuare nuove aree per edificare penso sia diciamo una scelta diciamo da non perseguire. Inevitabilmente si dovrà secondo me fare un ragionamento, e su questo diciamo Peppe ha già ha già detto, diciamo, qual è l'impegno. Bisognerà ragionare sul centro storico, sulle abitazioni esistenti nel centro storico. Io penso che il problema diciamo, degli immobili e delle abitazioni civili debba essere affrontato anche in termini del mercato degli immobili, perché un problema che si vive a Castelbuono è il prezzo delle case. Quindi, ragionando su quelle che sono le abitazioni civili nel centro storico, consentendo attraverso un'interlocuzione con la soprintendenza e con ovviamente i proprietari degli immobili, si possono adeguare a quelli che sono i nuovi standard abitativi. Quindi ad esempio individuando due unità immobiliari vicine, cercando di renderle abitabili per le esigenze della vita contemporanea. Inevitabilmente tutto questo si ricollega alla domanda di poco fa, mi permetto di aggiungere qualcosa su quello che è lo sviluppo dell'artigianato e di conseguenza anche dell'edilizia, per cui bisogna ragionare in termini di bioedilizia, di case, diciamo, ecocompatibili, per cui un settore su cui gli artigiani castelbuonesi, secondo me, a mio modo di vedere, potranno trovare nuove opportunità di lavoro e di business sarà quello delle costruzioni ecocompatibili, quindi ad esempio infissi a risparmio energetico oppure alla geotermia. Potranno trovare, secondo questa politica, nuove opportunità di sviluppo e quindi di lavoro per i castelbuonesi. Grazie assessore, è stato molto esaustivo. Non abbiamo resti pure con la cuffia senza nessun problema, perché gradirei che intervenisse, indipendentemente dal fatto che lei possa essere stato designato al territorio ambiente, però è un uomo anche di cultura, è un laureato, dunque la cultura penso che interessi tutti, chi fa diverse attività, insomma, se si parla di cultura musicale, architettonica, sempre cultura è, libraria, di poesia, di saggi, eccetera. A me preme particolarmente un argomento, l'argomento cultura. So perfettamente che durante il carnevale il sindaco Cicero ha detto che già il progetto per quanto attiene il teatro comunale è stato posto cioè è già in fase espletativa sotto la via per via burocratica, ma ancora attuativa no. Intanto i tempi di un teatro a Castelbuono, perché è fondamentale, lei prima citava le maschere, insomma sono dei ragazzi che durante l'anno preparano dei copioni, si esercitano e quant'altro, per poi nella fase finale far divertire un po' la gente criticando e facendo la cosiddetta maschera, che poi non è altro che una satira politica locale e di costume, se vogliamo. Quindi i tempi di attuazione di questo teatro. Poi, secondo lei, cos'altro mancherebbe a Castelbuono per chiudere questo cerchio culturale? Perché lei mi insegna, essendo castelbuonese, che molti scrittori sono nati a Castelbuono, anche se vivono a Milano, anche se vivono altrove. Uno l'ho avuto ospite l'altro giorno qui. Ha scritto un libro, a mio modo di vedere, molto critico sotto il profilo della Santa Sede, perché Sex in the Vatican, cioè, voglio dire, ed è uno scrittore straordinario, ma insieme a lui ci sono altri poeti, altri scrittori che hanno dato veramente tanto ai castelbuonesi e a loro stessi. Quindi cos'altro manca, secondo lei, per chiudere il cerchio a 360 gradi? Perché ricordo ai radioascoltatori, per chi non è mai venuto a Castelbuono, mi pare che possono essere pochissimi, che non conoscono Castelbuono e cosa si fa a Castelbuono, soprattutto nel periodo estivo, dal Sigro Rock, andiamo a finire ai 10 giorni di jazz e di alta qualità, tra l'altro, e poi Paese di Vino, insomma tantissime cose fatte dal comune, da privati, che danno veramente una certa rilevanza al comune e importanza per quello che la gara podistica, che è straordinaria, quest'anno mi pare che ricorreva i 100 anni e poi è stata procrastinata per motivi di olimpiadi e cioè per motivi tecnici. Cosa manca a Castelbuono per veicolare più cultura o quantomeno per chiudere il cerchio della cultura che c'è a Castelbuono? Lei ha detto bene, ha fatto riferimento al cineteatro Le Fontanelle, che dopo una lunga e travagliata vicenda progettuale finalmente per il tramite del PIST può ricevere il finanziamento. Spieghiamo cos'è il PIST, perché noi parliamo in tecnocrate, la gente che ci ascolta le sole piste da sci. Piani integrati territoriali che attingono delle forme di finanziamento pilotate al territorio, proprio così. È una struttura sovraccomunale che fa capo a Sosvima e che ha attenzionato parecchio non solo il restauro e il recupero del Cineteatro Le Fontanelle, ma anche il Plesso San Francesco, un altro plesso monumentale. Molto bello, tra l'altro. Molto bello. È quasi certo ormai che tutti e due questi progetti ricevono adeguato finanziamento per il recupero. Questo è un primo passo fondamentale, perché giustamente, come diceva lei, e l'abbiamo visto con le maschere a carnevale, è mancata una struttura dove svolgere queste manifestazioni. Ma il Cineteatro delle Fontanelle da solo non basta, ha detto bene. Mancano i centri di aggregazione per i giovani che vogliono esprimersi in vario modo, e mancano i centri di aggregazione dove possono attivare momenti di confronto i giovani. Lì, a mio avviso, va perseguita già un'idea del sindaco uscente, che è quella di valorizzazione e recupero dell'intera area castellana, dove si potrebbe creare un centro di aggregazione polivalente, attivando anche un meccanismo per la scuola della musica, per esempio. Abbiamo assistito in questi anni ai vari raduni delle bande musicali, ma al di là degli eventi che citava lei. La cultura proprio è insita del Castelbuonese, e il Castelbuonese merita di avere i punti di incontro per crescere con la cultura. Bene, prima di salutarci, due altri aspetti che ancora non abbiamo toccato, sono ambedue importanti. Il primo è importante, perché formiamo giovani, e parliamo di sport. Ultimamente la Castelbuonese è stata promossa in prima categoria, e bisogna dire grazie ai ragazzi che sono impegnati, le famiglie, insomma tutta la nomenclatura, hanno fatto tutto il possibile, e questo è un risultato positivo per tutto Castelbuono, sportiva se vogliamo. Quindi per lo sport abbiamo da costruire qualcosa, abbiamo da realizzare qualche progetto, i campi da tennis ce li abbiamo la pista ciclabile, però manca ancora qualcosa. Cosa manca, dottor Norata? Sì, lei ha citato il plesso Toto Spallino e il campo sportivo, perché citando la promozione in prima categoria. No, mi perdoni, siccome vedo tanti giovani, tanti ragazzi, sì, pronti a non stare magari al bar, ecco, toglierli dal bar. Una volta c'erano gli oratori, adesso c'è un'altra forma di aggregazione, ma sono parimenti importanti per dare ai ragazzi, con la disciplina, nello stare insieme, nel convivere insieme, perché lo sport è quello, fa, ti forma e ti fa crescere, ti responsabilizza. Sì, sì, e quindi indirettamente ha citato due strutture importanti per crescere e sviluppare lo sport a Castelbuono. Parliamo del... Prego, non è soltanto una questione di microfono, non si preoccupi. Parliamo del campo sportivo di calcio e del Toto Spallino. Tutte e due sono strutture, a mio avviso, ancora non complete, e tutte e due oggetto di progetti per la definizione. Credo che già l'amministrazione uscente li abbia presentati per partecipare a un bando, e speriamo che possano ricevere adeguato finanziamento. Con questo progetto il campo sportivo potrebbe finalmente trovare la sua massima efficienza, con la sistemazione definitiva delle gradinate, perché ci riportiamo dietro un problema annoso, perché le gradinate nuove non sono state mai collaudate, perché non potevano essere collaudate, ma principalmente per quanto riguarda il manto erboso del campo da gioco. Questi potrebbero essere fondamentali per il rilancio del calcio a Castelbuono, e specie alla luce del risultato della promozione in prima categoria, non è da poco come obiettivo per l'amministrazione futura. Cosa diversa è il progetto di restauro del Toto Spallino, il campetto a cui si riferiva lei, del campo da tennis o di pallacanestro, pallavolo, e la pista che c'è attorno. Lì c'è un progetto di ristrutturazione complessiva, ma la cosa importante è che è previsto che una parte viene coperta da una tensostruttura con circa 500 posti a sedere, e che potrebbe diventare un teatro, una palestra in più, sì, un teatro da utilizzare per eventi con quella portata di... Non soltanto per lo sport, pallacanestro, pallavolo, ma si può anche utilizzare per delle rassegne, sì, degli incontri, dibattito, della musica. Perfetto. Insomma, assolutamente, struttura che attualmente manca a Castelbuono e che è indispensabile. La stoppo 5 minuti appena per la seconda risposta. Qui tocchiamo un aspetto che io ritengo fondamentale per il quieto vivere in una cittadina come Castelbuono, ma anche per chi è allocato in alta montagna. Parliamo di sanità. spesso in alcuni comuni manca il defibrillatore, spesso in alcuni comuni manca l'ambulanza col medico a bordo, cosa che non succede a Castelbuono. Il 118 è fornitissimo di medico a bordo, e c'è l'eliporto, cosa che non c'è in altri centri, di sta equidistante ai primi pronto soccorsi per ben 45 chilometri, per cui a me preme molto, visto che spesso si sente dire in giro, ma capita a tutti, gli è venuto l'infarto, l'ictus, questo qua. Cioè, se uno è destinato a morire, muore anche in ospedale, non è quello. Però secondo me un aspetto importante è quello di avere una maggiore pronto soccorso, ecco, usiamo questo termine, allocato sul nostro paese. Dopodiché si vede la patologia della quale soffre il paziente e si interviene ad accompagnarlo presso i primi nosocomi, che sono specializzati più del centro. C'è già qualcosa a Castelbuono, abbiamo detto il 118 è medicalizzato, cioè il medico è a bordo. C'è, mi pare, là sopra la piazzetta un altro, ecco, a Sant'Antonino, e ci sono i defibrillatori. Come possiamo chiudere questo aspetto sanitario a Castelbuono? I medici di base ci sono, mancano sabato, ma c'è la guardia medica. Lei pensi che basti questo o ci vuole qualche altra cosa ancora in più per tranquillizzare l'opinione pubblica? Sappiamo tutti il problema di riorganizzazione della sanità in Sicilia, che dovendo contenere la spesa ha dovuto operare dei tagli. Il dibattito sulla riduzione dei posti letto per quanto riguarda la natalità la dice lunga sui due ospedali di Cefalù e Petralia Sottana. Quindi approcciarsi con la sanità diventa un po' problematico. Difficile e problematico oggi. Personalmente, ma per un rapporto personale che ho con il direttore sanitario, già ho avuto una interlocuzione per capire se e come si possono coordinare degli interventi per migliorare l'offerta sull'assistenza a Castelbuono. E devo riconoscere che il direttore sanitario si è mostrato parecchio disponibile e mi ha assicurato che con un'amministrazione attiva è disponibile al 100% ad affrontare le tematiche sollevate. Il sottoscritto si ritiene proporsi per un'amministrazione attiva e non passiva, sicuramente. Ci mancherebbe. Ho un motivo di credere che il direttore sanitario potrà collaborare con me. Un'ultimissima domanda, anche questa non mi pare che possa essere sottaciuta, perché ho visto in diretta un giorno una macchina prendere fuoco in via Cefalù e noi abbiamo i vigili del fuoco distanti, Termini Imerese, Petralia. Non sarebbe caso, sindaco, che un'amministrazione si autofornisse o quantomeno cercasse una forma di collaborazione con un ente, con un'autobotte, con del personale specializzato? Perché nel caso in cui prende a fuoco una macchina a Castelbuono, ci sono corsi le guardie forestali con gli istintori, ma con la benzina poco c'era da fare. Per cui necessita, io credo, a Castelbuono un presidio piccolo, grosso, insomma, con che siano vigili del fuoco, che sia protezione civile, ma che siano altamente specializzati, perché se succede un evento del genere mi pare che non possiamo aspettare i vigili del fuoco che scendono da Petralia con tutta la buona volontà, che vengono da Termini Imerese, il disastro e poi sarebbe sotto gli occhi di tutti. Quindi cosa ce l'ha un'idea lei di come si potrebbe fare per avere una location sul posto di gente che possa intervenire prontamente in caso di un disastro del genere? Sì, l'idea ce l'ho ed è abbastanza chiara, perché è un'idea vecchia che già avevamo messo su quando nel 94 io sono stato assessore ai servizi sociali e alla sanità, proprio nella prima giunta progressista che c'è stata a Castelbuono, la giunta presieduta dal sindaco Ciolino, e avevamo allora finalizzato la struttura dell'ex carcere proprio adiacente a via Mazzini come struttura di protezione civile, dove allocare non solo i volontari di protezione civile ma attivare una postazione avanzata per i vigili del fuoco. In tal senso mi sembra di ricordare che l'amministrazione uscente ha trovato anche le forme come finanziare il restauro del plesso, e adesso potrebbe essere utile riavviare un contatto con i vigili del fuoco, cui mettere a disposizione almeno una parte della struttura e destinarla come postazione avanzata per i vigili del fuoco. Bene, noi ci fermiamo qui, ma prima l'ultima domanda a entrambi. Cosa si sente di esternare ai suoi concittadini prima che si chiuda la campagna elettorale? Cosa vorrebbe che passasse come messaggio suo verso i suoi concittadini? Io mi pongo come un amministratore concreto, di poche parole. Possibilmente in qualche comizio mi perderò perché vado al dunque della questione e cerco sempre, ma per mia indole tecnica, di non essere prolisso attorno a un tema. Questo magari forse ne pagherò un prezzo in termini di popolarità a livello di comizi, perché però è così che mi pongo, nella concretezza del quotidiano. Sono abituato giornalmente, come lei più volte ha ricordato, a occuparmi di rifiuti che giornalmente devono essere tolti dal territorio per presentare il nostro ambiente quanto più pulito e degno di un'offerta adeguata. Più concreto di così credo che non si possa essere. Sotto gli occhi di tutti, quindi voglio dire. Porsi come obiettivo l'amministrazione di una comunità con la concretezza che mi caratterizza, credo che sia il messaggio primario che vorrei fare passare a tutti i cittadini. Un in bocca al lupo, dottor Norata. Crepi il lupo. Lei invece cosa vorrebbe trasmettere ai giovani? Ecco, rivolgiamoci ai giovani. Lei è un giovane e quindi, voglio dire, chi meglio di lei riuscirà a comunicare con i suoi simili, cioè con i giovani di Castelbuono? Qual è il messaggio che si sente di dare, non come politico, ma come giovane proprio, che si affaccia alla politica? Un messaggio, posso parlare della mia esperienza, di come vivo la realtà castelbuonese e il dialogo con i miei coetanei. Io penso che i giovani a Castelbuono non siano da liberare, perché credo siano stati abbastanza liberi in questi anni di esprimersi, di trovare uno sbocco a Castelbuono, sia lavorativo che anche umano, sociale, culturale. Hanno avuto spazi, hanno avuto e continueranno ad averli questi spazi, e hanno avuto un'interlocuzione costante con le diverse amministrazioni che in questi anni hanno amministrato Castelbuono. Il messaggio è di continuare ognuno per il proprio ruolo, a fare la propria parte, a spendersi per la comunità, e questo è una costante in tutti i giovani castelbuonesi. Poco fa parlavamo delle squadre di calcio, che sono molto animate, ma la stessa cosa possiamo dire per i gruppi musicali. In Castelbuono ci sono circa 15 e 20 gruppi musicali di diverso anche genere, musicisti di una certa levatura. Addirittura un gruppo castelbuonese è andata a registrare un disco a New York, ha iniziato la prima tournée nazionale, adesso nel mese di maggio farà un'altra tournée. Quindi il messaggio che mi sento di dare ai giovani è di continuare ognuno per il proprio ruolo, a impegnarsi, a spendersi per la nostra comunità. Bene, sindaco, io l'ultimissima me la devo proprio sparare. Castelbuono è un fiore all'occhiello delle Madonie. Cefalù vorrebbe essere la locomotiva che trascina il tutto in simbiosi con Castelbuono. Però, come diceva Sgarbi, ci sono i paesi satelliti che ormai si stanno decurtando ancora di più, ahimè, per una cattiva politica funzionale di quei posti. Ma c'è sempre più bisogno di un'aggregazione tra i comuni. Ormai l'identità non è più quella di essere pollinese, cefaludese, castelbonese, ma è di essere madoniti a 360 gradi. Lei condivide questo aspetto? Perfettamente, al 100%. Io ho sposato in pieno il progetto della città policentrica termini Madonie. È un progetto ambizioso, un progetto ampio che coinvolge un territorio vasto, in termini di estensione di territorio il più grande sicuramente della Sicilia e delle altre città, e si pone come il numero di abitanti come quinta città della Sicilia. Ma la cosa importante è mettere a rete una serie di servizi che diventano fondamentali e strategici per il rilancio di tutto il comprensorio dei 28 comuni, perché diventano 28, tra cui si potrebbe pensare a servizi diffusi per gli imprenditori, per esempio, o servizi condivisi di acquisti globali che potrebbero aggredire meglio la concorrenza, per esempio acquistare energia elettrica piuttosto che carburanti a un prezzo più adeguato, sia per la pubblica amministrazione che poi... L'unione fa la forza. L'unione fa la forza, sicuramente. In un contesto futuro. Dottor Norata, io la ringrazio di cuore per aver accettato l'invito, per avermi dedicato un'ora e mezza del suo tempo, che grazie in questo momento è prezioso. Ringrazio parimenti il dottor Vignieri, che l'ha accompagnata, che è designato assessore al territorio e ambiente nella prossima amministrazione. Speriamo che insomma vinca il migliore. Io più di questo non posso augurarvi, dovevo essere super partes, è giusto che sia così. Tutte avete le carte in regola per poter gestire, dicevo prima, la Castelbuono del futuro. L'augurio che mi faccio da abitante di Castelbuono è che l'amore verso questo paese, soprattutto per chi non è di quel paese ma che ci vive e abbracciato e sposato in pieno tutto quello che Castelbuono offre in termini di genuinità di prodotti, in termini di amicizia, in termini di affetto, tanti amici sinceri che mi stimano e che io stimo, tra questi mi permetterete di includere anche voi, che Castelbuono resti il Castelbuono che conosco io da sempre, che abbracci il forestiero come ha sempre fatto, perché poi è un valore aggiunto che il paese ha, ma soprattutto fermo restando il punto importante che questo comune, questo paese venga amato sul vero senso della parola, perché lo merita. Grazie a entrambi per essere stati con noi. Grazie. Prima di passare la linea alla regia, devo salutare gli ultimi sponsor. Vi ricordo, chi volesse mangiare, insomma, l'insegna del gusto di mare, deve andare in via Cristoforo Colombo 8 bis a Termini Imerese, telefono 091 811 1447, perché c'è il ristorante a Sapore di Mare, dove potete anche fare gli acquisti, andare a casa vostra, risparmiare vostra moglie. Vi danno già i frutti di mare, ricci, crostacei, cotti e crudi, pesce fresco, anche cotto se volete, per preparare le pietanze a casa vostra senza che disturbiate vostra moglie. Quindi vi ricordo il Sapore di Mare in via Cristoforo Colombo 8 bis, poco distante dall'ex Fiat di Termini Imerese, a Termini Imerese. Poi si avvicina l'estate, clima ideale di Bruno Sergio, ve lo consiglio per tantissime cose, soprattutto per il centro assistenza delle caldaie. Importante, in inverno quando si guastano le caldaie non si riesce più a riscaldarsi, basta chiamare il numero 0921 426 767, e l'azienda Bruno viene a controllarvi la caldaia, vi consente di riscaldarvi ancora. Pure centro assistenza della Jungers Bosch ELM LeBlanc, sistema di depurazione delle acque, gel più le acque bianche, insomma potete bere dal vostro rubinetto senza nessun timore. E poi pannelli solari, acqua calda circolare oppure forzata, e naturalmente tutto ecologico. Quindi chiamate questo numero 0921 426767, vi risponde Bruno Sergi, che è il titolare di Clima Ideale a Finale di Pollina. Torniamo invece a Castelbuono, e ce ne sono tanti, lo so, ma Castelbuono è prolifica. Vi raccomando un'azienda che si chiama 2M, dovete chiamare, pensate, prima per fissare un appuntamento, tanto lavoro questa azienda ha. Porte che arredano, porte di interni, porte esterne, infissi, tutto quello che volete, le maniglie, un assortimento straordinario, ma c'è una peculiarità, pensate, le porte in rovere massiccio sono appena 600 euro con il montaggio incluso. Mi raccomando, porte 2M con showroom in via Cavour 74, per quanto tiene invece la produzione è incontrata a San Calogero. Chiamate prima 0921 67 7012, fissatevi l'appuntamento per i vostri preventivi, anche per far crescere dentro casa vostra la vostra camera da letto, ve la fanno sotto su misura, o anche la cucina che più vi piace, ve la progettate e loro ve la realizzano. Chiudiamo con un aspetto importante. Oggi la bolletta dell'Enel, ne parlavamo prima con i nostri ospiti, è molto gravosa da portare avanti e da pagare da parte delle famiglie. Allora cosa bisogna fare? Bisogna andare a Medialet in via Ugo La Malfa 61 a Casteldaccio, oppure chiamate il numero verde 800 111 341, vi risponderanno gli addetti ai lavori della Media Elettra, e con il sistema Sun Power voi tagliate, pensate, la vostra bolletta quasi del tutto. Vengono i tecnici a casa vostra, vi fanno il preventivo, installate il sistema Media Elettra Sun Power, dopo 20 anni voi avete l'opportunità non solo di non pagare più la bolletta della luce, ma l'Enel vi rimborsa i soldi, perché producete in più l'energia che viene prodotta in più vi viene rimborsata dall'Enel stesso. Quindi ricordate 800 111 341, chiamate e i tecnici della Medialetta verranno a casa vostra a farvi il progetto e la realizzazione, la posa in opera, dopodiché cominciate a tagliare la bolletta dell'Enel e a guadagnare voi stessi i vostri soldini. Detto questo, io vi rimando alla prossima settimana, per quanto attiene giovedì prossimo, per quanto attiene la diretta di Carta e Penne, studio sempre Filippo Grosso, ringrazio la parte tecnica, il nostro fonico Raul Bova, lo chiamo così ormai. L'appuntamento invece è in differita domenica alle 9.30, a partire dalle 9.30. Mi auguro di essere stato esaustivo con due personaggi, anzi tre personaggi straordinari, il dottor Norata, il dottor Vignieri e poi il comandante della locale compagnia dei Carabinieri. Cos'altro dirvi? Vi auguro un buon weekend all'insegna del sole e, perché no, all'insegna di un relax totale. Magari fate una passeggiata in campagna tra un fiore e l'altro. Da Filippo Grosso è tutto, grazie e a risentirci alla prossima settimana. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di